In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Se si arrivava al comandamento 18, pensa alle discussioni che ci sarebbero state, dicono, in questo, sull'articolo 18, so che ora stanno rimettendo mano anche alla Costituzione, infatti, nel governo, quindi vi devo spiegare a fare 10 comandamenti, perché non vorrei rimettessero mano anche a 10 comandamenti. Vabbè, Roberto Benigni che dice dobbiamo rifare 10 comandamenti prima che li riformi Renzi. Questo è il concetto. L'audio non era nei migliori, ma questo ha detto Benigni. Allora, iniziamo così con Roberto Nazionale che tornerà in TV, credo, a dicembre, alle 6:31 minuti. Questa è 24 mattino, cari ascoltatori, siamo pronti a un'altra giornata in cui vi vogliamo tenere compagnia. Che state facendo? Ditecelo se volete al 349-238-6666. State già lavorando, razza di debosciati. Se ci state ascoltando, beh, certamente almeno una radio accesa ce l'avete da qualche parte, eh? In macchina magari state andando, magari siete sotto la pioggia. Oggi parleremo di Genova, avremo anche il governatore della Liguria burlando alle 8:15. Parleremo di come sia possibile che con delle piogge, anche se insistenti, ogni volta succedano queste tragedie in Italia e in particolare in alcune zone. Alle 6:32 minuti saluto Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Dai, apriamo subito il Parlamento che abbiamo tante cose da raccontare. Adesso come sempre vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo si ferma con noi. Parlamento, forza. Allora intanto voglio salutare un uomo, una sbarra Mediaset, un uomo simpatico come un chinotto sgasato, Federico Novella. Eccomi, mi sto mettendo la cintura di sicurezza. Ecco, infatti eccomi, sento qua, beep, qua. Beep, beep. Ecco, ci siamo, buongiorno. Ci siamo, buongiorno. Benzina fatta? Fatta, miracolosamente fatta questa mattina. Qui 7 euro di benzina, 7 euro e mezzo. 7 euro e 50. Ci sono le accise, sai com'è. Vai a Mediaset e torni. Casa lavoro, lavoro casa. Un uomo che alle 9 del mattino si accompagna a Federica Panicucci, mentre io sono qui appunto con il barbuto Nespoli e l'alpino Bescapè. Però va bene, sai com'è. Un uomo fortunato. Un uomo fortunato. Sì. Io? No, no, te. No, io, purtroppo, cioè, purtroppo per te sono io quello fortunato. Esatto. Vabbè. Ma caro Federico, invitiamo, ecco, e accogliamo subito a braccia aperte la nostra direttorissima, la nostra Aurora Lussana, direttorissima della Padania. Buongiorno Milan, come sempre un caro saluto a te, un caro saluto ai tantissimi amici di Radio 24. Che è la? La seconda radio più amata del paese dopo Radio Padania Libera. Radio Padania. Ah, si chiama Radio Padania Libera, non Radio Padania. Sì, RPL. Sì. Ah, RPL. Lo sapevi, sì, Novella? RPL? RPL? No. Sì. Questa dicitura mi mancava. Mi mancava. È un nome originale per una radio. RPL, mai sentito. RPL. Era la radio Varese, pensa a te. Chi le Varese. Ma tra l'altro è su 103.5, quindi RPL 103.5, è fantastico, cioè praticamente siete dei plagiari, questo, avete fatto un plagio, questo, diciamo, un quasi plagio, ecco, diciamo così. Vabbè. E avercene di Radio Libera, avercene, sì, un po' come noi, un po' come noi che si combatte, dai. Ma c'hai sempre della musica al sottofondo? No, è Federico stavolta. Aspetta che tiro giù, stavo vedendo 300. Aspetta, cos'è che stavi vedendo? 300? 300, sì. i 300 che alle Termopili fermarono l'invasione persiana. Aspetta, che tiro giù la musica, allora. Certo, che colazione pesante, eh. ragazzi. No, no, è che no, aspetta, è che sabato siamo in Piazza Duomo alle 18. Sì. 18 ottobre alle 18 tutti in Piazza Duomo contro l'invasione. Stavo cercando un po' di musica da. Ragazzi, ma giocano contro solo l'invasione. Sì, non lo so. Sì, contro Mare Nostrum il 18 ottobre. Federico, non sminuire, militare umanitaria. No, stavo preoccupando. Anche te, non sminuire, Federico. L'invasione. Vabbè, c'è qualcosa che non va. L'invasione. Ma di chi? No, Ma di chi? Uno entra dalle frontiere, che ormai non ci sono più, no? Senza documenti, in maniera illegale, sì. In maniera irregolare. È un'invasione. Sì. Poi, vabbè, abbiamo Alfano, che ormai fa il tour operator nel Mediterraneo. Quindi chi è contro Mare Nostrum, che è contro un'invasione programmata? Alfano Tour. Alfano Tour. Crociere, sì. Vabbè, però ragazzi, qui c'è poco da scherzare, visto, allora sottopongo subito ad Aurora Lussana la notizia che oggi il giornale a pagina 16 dà, e cioè è questa: sventato attacco terrorista alla metropolitana di Milano, lo dice il capo degli 007 del Marocco. Abbiamo ragazzi, qua che non è che dobbiamo spargere terrorismo, però il capo degli 007 marocchini dice: abbiamo colpito una cellula jihadista che aveva un piano anche contro le basiliche di Padova e Bologna. Aurora, fai il piano, eh? No. È una minaccia concreta e bisogna agire impedendo la costruzione di nuove moschee. Ma cosa c'entrano? No, c'entra tutto. Bisogna agire, allora, come hanno fatto in Marocco. Bisogna agire come hanno fatto in Marocco. Islamiche, tu dimmi, in Italia c'è stata la sottoscrizione di intese, così come previsto dalla nostra Costituzione. Sì, ma cosa c'entrano? No, perché non vogliono riconoscere i principi su cui si fonda la nostra convivenza sociale, il consorzio civile, la nostra visione occidentale, guarda, la nostra civiltà. Che ci sia una minaccia. Ma che ci sia una minaccia, io sono d'accordo. Ma bisogna fare come hanno fatto in Marocco: hanno sventato una cellula jihadista. Cioè, questo in Marocco sono persone serie. Sono persone serie, avranno un ministro degli interni serio giù in Marocco. Se ce lo prestino un po', che facciamo un po' anche noi di Federico, eccoci qua. Ma non, non mi sembra tanto una questione di flussi migratori quanto di servizi segreti. Questa, infatti, no? Appunto, sì. E cosa c'entra le moschee? Sono cose diverse. Appunto, no, le moschee, i flussi c'entrano poco, insomma, lì si tratta di fare un'operazione di intelligence e mettere in piedi una rete che possa prevenire e sventare eventuali attentati. Però, insomma, il numero di barconi che arrivano a Lampedusa è una cosa diversa. No, a Lampedusa non arrivano più, vanno direttamente in altri porti e poi con degli aerei, no, li portiamo negli hotel. Ma non è che quelli che arrivano a Lampedusa poi vanno nella metropolitana di Milano a fare l'attentato. No, non funziona così. Allora, vabbè, lo sai anche tu, Aurora. Poi dopodiché voi il 18. Ma voi sapete chi sono quelli che arrivano, ma voi li conoscete? Ma no, ma non è che li conosciamo, ma cosa c'entra? Ma voglio dire, ma dopodiché voi il 18 fate la manifestazione che volete, è legittimo, manifestate. Però voglio dire, sono due cose diverse, dai, e lo sai anche te, tra un conto e i flussi migratori. Cioè, non è che quelli che fanno il jihadismo arrivano coi barconi, dai. Infatti le fanciulline partite dall'Austria per andare a combattere con la jihad erano ragazze austriache, giusto? Allora sei d'accordo che c'è una civiltà che è la nostra, che è oggettivamente minacciata da chi ci disprezza legittimamente, cioè nel senso da pochi fanatici che purtroppo, sì, è vero, questo, ci disprezzano in quanto infedeli, in quanto impuri, è vero, purtroppo ricordiamoci che ci sono anche tanti italiani che si arruolano, partivano dalla Lombardia. Perfetto. I convertiti che sono quelli eccola. Allora, o c'è, come dicevamo, un servizio di intelligence che funziona, o se no questi rischi alle nostre metropolitane, quasi la Basilica di Padova, ma c'è il Bitonci lì, secondo me li pensa prima Bitonci, guarda. Secondo me Bitonci a testate li affronta. Vedi Federico, Padova. perché i leghisti guardano 300 al mattino, perché poi Bitonci sguaina la sciabola e affronta i jihadisti. Perché non è un film, è un addestramento. Esatto. Comunque, per continuare il plagio, cara Lussana, ci suggeriscono dopo RPL 103.5 no al Fitur. Aiaia, Alfi Tour. Aiaiaiaiai. Potrei... Ma siete dei geni, lì, siete dei geni. No, è un ascoltatore che ci manda. Ci manda un messaggio. C'è uno anche che mi scrive: Forza Juventus, Milan, vai a fare in culo tu e la tua squadra di merda. No, guarda, se lo stavo per dire mi hanno anticipato. Ma come? Ma come ti permetti? Così, ma come ti permetti? Fa sempre bene ripeterlo. Ma no, soprattutto è sempre bene l'educazione, la compostezza, la pacatezza di alcuni dei nostri ascoltatori, pochi per la verità. Veramente, sì, vabbè. Allora, cosa c'è? Allora, la notizia è questa, in realtà. Sì. Non mi interessano le tasse, cioè poi arriveremo alle tasse, Renzi, ma... Il lunedì, sai Federico Novella con chi in genere faceva le cene Berlusconi? Il lunedì, tradizionalmente, cos'era? Cena con? Un po' con tutti. No, il lunedì era tradizione con Umbertone Bossi. Esatto. Ieri sai chi è andato a cena da Berlusconi? Sai. Dimmelo tu. Vladimir Luxuria. Lo so, certo. Si erano già visti la settimana scorsa, se non sbaglio, sì, no? Ormai sì, però voglio dire... No, guarda, siamo alla sublimazione erotica. È un interlocutore ufficiale. Come possiamo non approfittare di Aurora Lussana qui, caro Novella? Cioè, da Bossi a Luxuria, capisci? È la desublimazione erotica di Marcuse, probabilmente. Marcuse, no, filosofo. Allora, c'è da dire che almeno sabato Berlusconi ha visto un po' di leghisti che gli hanno portato spero consiglio, perché ha incontrato i nostri candidati in Emilia Romagna. Noi gli abbiamo proposto due persone validissime come governatore dell'Emilia Romagna e ci auguriamo che Berlusconi sostenga queste brave persone, un eccellente sindaco che ha ricostruito il paese dopo il terremoto, il sindaco di Bondè. Quindi insomma, sabato ha visto delle persone per bene, ha visto quelli della Lega. Lunedì sera, è vero, letto quella roba qui, che ha incontrato la Luxuria, perché c'è questa compagna napoletana lì, la Pascale, che ma lo dice con quest'aria era un po' questa napoletana qui, dai, l'hai detto un po' così. Vabbè, la sua origine etnica non è mica da... Ti verrebbe da dire un po'... Di la verità. Qual è l'origine etnica? È napoletana. È italiana. Non è persiana come quelli dei termobili. È orgogliosamente napoletana. E questo ci fa piacere. Io sono a favore di tutte le identità e lei è orgogliosamente napoletana. Quindi eccolo, insomma. E lunedì sera, appunto, lui raccontava che, insomma, alle origini... Sì. Come nasce la cena del lunedì? Sì, come nasce? Perché lunedì parlava non di calcio. C'era teatro. No, perché lunedì non andava a teatro Berlusconi, no? Non sapeva cosa fare. Si occupava di politica lunedì sera e allora aveva bisogno di buoni consigli. Chiamava Bossi. Berlusconi chiamava chi Bossi. Capito. Infatti vinceva le elezioni Bossi. Eccola, hai capito Novella. Da qui adesso con Luxuria cosa? Cambiato il vento, Luxuria deve rassegnarsi. Sì. Stavo dicendo Luxana, scusate. Era un altro plagio. Deve rassegnarsi, e purtroppo anche Berlusconi da liberale qual è, si è aperto ai nuovi diritti, no? Per le persone dello stesso sesso. Quindi il nuovo consigliere è Luxuria. È chiaro. Tra l'altro, scusate, c'è un messaggio. Io faccio scempio della lingua, dell'identità bergamasca. Luxana, stai lei a dormire la mattina. No, sei bravo. Vabbè, insomma, cioè stai a letto a dormire la mattina. Va. È un uomo o una donna? Non lo so, non si firma. Vedi, nell'anonimato, la vigliaccheria. Sarà un napoletano. Sarà un napoletano che parla un po' così. Sta lei c'ha dormì la mattina. è un fake anche quello. È un plagio. Comunque, voglio dire, cara Luxana, ti voglio mettere una canzoncina che forse riconoscerai di un film celebre, non è 300, ma visto che tu hai detto apertamente... insomma, che sei per un amore, un sesso, come dire, orgiastico, autentico e non meccanizzato e consumista. Ecco, panico. Dal dio Pan, no? Te lo ricordi questa? Questa era Eyes Wide Shut. L'hai visto? Meraviglioso, bellissimo. Ah, ecco, appunto. Sì. Sì, straordinario. Perché? No, ho letto anche il libro di Arthur Schnitzer, Doppio Sogno, forse il libro ancora più straordinario di Eyes Wide Shut. Lo dedichiamo a te perché magari ti ritrovi in queste... Sì, però quella è un'allucinazione, insomma, non è, se una delle, non è simile. Aspetta, cosa c'è Federico? Ma se siete messi così alle 7 di mattina, a mezzogiorno che fate? Ma ragazzi, regolatevi. È Aurora Lussana che ci ha svelato questa sua passione per il sesso orgiastico, e quindi noi... Vabbè, ma cosa ti evoca questo? È vero, è la nostra, è una società con profondi disagi, e Eyes Wide Shut la racconta bene. No, mi piace. Ah, pensavo che ognuno, bravo, e ognuno li affronta come. Va bene. Hai conquistata così tua moglie a portarla a vedere Kubrick? No, veramente no. Sei tu che hai detto che hai questa passione. Io no. Quindi, insomma, l'abbiamo dedicata. No, allora, è ora di finirla, perché avete letto Micromega? E Micromega? No, l'ultimo. Micromega, Federico, si occupa proprio di questo. Quando la professoressa Lussana interroga è un disastro, no? Micromega. Guarda, ho appena finito di leggere gente, ma Micromega non mai. Le robe che dico io, va bene. Sì. No? È stato straordinario, secondo me, questo Micromega, il 5 del 2014, recuperatelo. Maggio, quindi la lettura da mare. Sì, certo, è quello, sotto l'ombrellone, è quello, o gente, appunto, come leggi tu. Vabbè, in tutto questo, prima del traffico, siamo alla seconda settimana del nostro Free Rossella Brescia, guarda che Aurora Lussana non ce la sganciano da RDS, non si capisce qua. La terra è sequestrata, anch'io una bella ragazza così, fa bene. No, ho capito, ma insomma io vorrei una volta portarla qui al Parlamento. Ma facciamo un flash mob, no? Per Rossella Brescia, sotto, no? Sotto RDS. Un sit-in, io vengo, se vuoi. Oppure sotto RPL 103.5. Sotto RPL, facciamo un flash mob sotto RPL, dai. Sotto RPL, tutti sotto RPL 103.5, traffico. Questa è Sparta! 24 mattino. Ciao Milan, sono Mario da Napoli. Gigino il sindaco era un grande interista, poi fa finta di essere tifoso del Napoli. Basta questa per dire che persona abbiamo. Io i giovani a spallare il fango l'ho visti, non ho visto i giornalisti e i politici che sono la causa che hanno ridotto il paese in queste condizioni, hanno spallato il fango. Genovesi, sveglia, sveglia. Dovete andare sotto casa di questi, tirarli giù, prendere i soldi e usarli per mettere adesso a posto la città. Non esiste una cosa del genere, non esiste. Sono comunisti, quindi uguale ladri. Ladri, caro Milan. Tutte le giunte di sinistra spendono solo a rubare. L'ennesima dimostrazione premia i dirigenti. In parole povere, ad Aosta spara nel sedere all'amico con il compressore, intestino perforato e lesioni genitali. Non ne ha parlato nessuno. Ma è mai possibile questa differenza? Voilà, Grillo, cosa hai fumato? Lo voglio anch'io. Salve italiani! Vi devo dire una cosa. Diceva mia madre, buonanima, caro figlio, ricordati, sulla terra, povera chi è fesso. E chi comanda fa le leggi. Ciao Italia. Ciao anche a te dalla Puglia, credo, dall'inflessione dialettale. Allora, siamo con Aurora Lussana, direttore della Padania, e con Federico Novello. Questa storia dei premi ai dirigenti, Federico, è una roba incredibile. Mamma mia, a Genova. Tra l'altro, a mattino 5 oggi, dalle 9 in poi, mi consiglio di guardarlo perché abbiamo beccato il capo della Protezione Civile di Genova. Non so se è presente. Si è beccato questo famoso premio. Sì, ti dico solo che ci dà degli sciacalli. A noi. Sciacallo! Detto, ma le sembra giusto questo premio? Sì. Sciacallo. Risposto, siete degli sciacalli. Ti sembro uno sciacallo io? Non lo so. un pochino sì. Faccia la sciacallo, postura la sciacallo. È un gufo invece, va bene. Lo sciacallo Novella. Aurora, tu gli avresti dato un bel premio. Vabbè, ma no, ti faccio, hai visto che ti abbiamo messo prima Sparta? Sparta 300, sei contento? Meraviglia, bello. Tutto per non parlare del documento di economia e finanza, vedo, caro Milan. No, ti faccio sentire Renzi, che ieri ti faccio sentire. Bergamo. Era Bergamo, è vero, nella tua Bergamo. Tra Nembro e Dalmine. Oh, ma certo, non gli hai fatto un picchetto, un'accoglienza? Certo. Blocca Italia uguale sblocca rifiuti, sai che ha sbloccato i rifiuti. Cioè quelle cose con le pentole come in Argentina, sì. Le casserolasa. C'era la FIOM e c'era la Lega. Ah. Lavoratori. E come mai dicono contestato la FIOM? L'avete applaudito voi della Lega? No, va bene, eravamo a fare il presidio contro lo sblocca Italia. Quando è arrivato a Nembro. Silenzioso. Sì, no, Nembro. Pacifica. Vabbè, Renzi. Impazzata, ma pacifica. Senti, Renzi che promette taglio delle tasse nella legge di stabilità domani. Perché? No, aspetta, sentilo prima. Sentilo. Io vi dico, togliamo per i nuovi assunti l'articolo 18, togliamo il peso fiscale per i primi 3 anni. Con questa doppia operazione noi vi sfidiamo, cari imprenditori. E poi dice riduciamo le tasse ai 18 miliardi di fatto, eh? Balle, dice la Russana, perché? Questa matematica non è euclidea del nostro Presidente del Consiglio. Allora, il Governo, il Consiglio dei Ministri, ha appena approvato il documento di economia e finanza, il DEF. Sì. Lo sai cosa si legge nel DEF? Vai su Google, cerchi il DEF. Allora, pressione fiscale 2014 43,3. Pressione fiscale 2015 43,4. Pressione fiscale 2016 43,6. Lo leggevo anche da Luca Ricolfi settimana scorsa. Lo giura, veramente? No, non lo sapevo, veramente. Ma Luca Ricolfi, dopo aver scritto il sacco del Nord, può fare quello che vuole. È stato leghista ad onorem Luca Ricolfi, autore del sacco del Nord. No, non lo sapevo, comunque si devono mettere d'accordo. Allora, aumentano la pressione fiscale da qui al 2018, lo scrive il governo nel DEF e poi lui fa quegli annunci lì a Bergamo. Effettivamente qualcosa di strano, cioè, però attendiamo domani, pare che abbia detto ai suoi Renzi, ho tolto 13 miliardi spending review nella legge di stabilità che vedrete domani, alla faccia di Cottarelli ha detto. Dove è finito Cottarelli? È andato al Fondo Monetario Internazionale, l'abbiamo rispedito in non ci azzeccavano molto i due, nonostante quello che dicevano il pubblico. Vedeva che non c'entravano molto l'uno con l'altro. Cottarelli, però ci ha provato a tagliare. Ci ha provato. Quarto commissario di spending review in 2 anni, ci ha provato anche lui. Avanti il prossimo, avanti il quinto. Esatto. Io quindi li sappiamo tagliare benissimo, i commissari agli tagli. Certo. Vi devo salutare, Federico Novella alle 9 si occuperà sciacallo della vicenda di Genova, ci occuperemo anche noi, avremo burlando alle 8:15, Aurora Lussana invece si ritorna su RPL 103.5 e ci dice la ricetta però in 2 secondi. Domenica sono andata su in Val d'Intervi, mi hanno regalato un po' di polenta uncia e la faccio durare tutta la settimana. Col bel formaggione, burro. Salvia e aglio. Buona colazione. E vuoi fare 300 poi? E vuoi fare il sesso orgiastico? Ci vediamo sabato alle 18 in Piazza Duomo. Sabato alle 18. Stop invasione. Tutti, stop all'invasione. Grazie, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Alle 7:19 minuti in punto. Eccoci qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Ci occuperemo oggi del maltempo, soprattutto le polemiche a Genova. Avremo ospite il presidente della Liguria Burlando alle 8:15. Avremo ospite anche il procuratore di Genova Michele Di Lecce, perché la procura indaga per omicidio colposo. Avremo ospite l'assessore all'ambiente di Genova. Insomma, parleremo di quello che è il disastro ennesimo e le polemiche conseguenti per l'alluvione. Situazione ancora molto complicata anche in altre zone d'Italia, ma lo vedremo appunto tra pochissimo anche leggendo i giornali.

la regina, la più bella del mondo, mamma mia come mi fanno arrabbiare queste classifiche, è Penelope Cruz. Se gli uomini preferiscono Penelope Cruz, è la donna più sexy del mondo. Ma chi l'ha... E poi c'è il dibattito, le brune che scalzano le bionde perché l'anno scorso era Scarlett Johansson, basta! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:20 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan, ovviamente a Genova, non solo in Liguria, ma non solo, anche in Piemonte, anche a Parma si contano i danni e ci sono anche le polemiche per quella che è stata l'alluvione, soprattutto a Genova, la Liguria ancora una volta colpita. Ne saluto il presidente Claudio Burlando, presidente della Liguria. Buongiorno, presidente. Senta, glielo chiedo subito perché sa che molti cittadini chiedono le dimissioni sia del sindaco ma anche le sue dimissioni. Oggi ci sarà una manifestazione, credo, sotto la regione. Lei come risponde? Ma io credo che la rabbia sia assolutamente giustificata, perché subire due alluvioni in stanza di 3 anni per gli stessi operatori del commercio in un territorio colpito negli anni 70 e quindi così pesantemente lasciato indifeso sia assolutamente comprensibile. Dopodiché rispondo con le azioni che posso fare io. Io ieri ho chiesto all'avvocatura di consegnare questi lavori del bisagno fermi da 3 anni, io sono commissario da 3 mesi, alle 2 di oggi sarò a Roma appunto all'avvocatura, io penso che sarà possibile sbloccare questa situazione e consegnarli, anche se la causa civile non è ancora finita e pende ancora il corso del Consiglio di Stato. Quindi diciamo dimissioni no, lei dice devo capisci, io, capisce la rabbia, ma il mio futuro l'ho già deciso, nel senso che, cioè? Che non, nel non senso si, che non mi ricandiderò e finisco diciamo adesso, quindi diciamo vorrebbe dire lasciare il campo nel momento in cui la città è devastata senza peraltro avere neanche possibilità poi in futuro di continuare questo lavoro. Dopodiché la seconda cosa che bisogna fare è quella di dare delle risorse fresche al mondo del commercio, dargliene tante. Io spero che tra il governo e noi possiamo dare una 50 milioni, perché altrimenti questi non riaprono più. 50 milioni? Cioè sono già stanziati? L'accordo raggiunto ieri con la struttura di missione di Palazzo Chigi è di fare metà la regione, che naturalmente non farà altre cose ovviamente, e metà diciamo il governo con la legge di stabilità, e quindi aiutare un mondo che è disperato. Ma naturalmente capisco che alcuni, come dire, anche le forze politiche possono utilizzare questa occasione a scopi politici, diciamo così, ma compito nostro è dare risposte ai cittadini. A proposito di risposte, capitolo opere, appunto, c'è un consorzio di imprese CSI, se non sbaglio, che ha vinto questi appalto da 35 milioni per lavori sul bisagno. I lavori, però, c'è un ricorso che pende il Consiglio di Stato, non sono mai partiti. Una sequenza di ricorsi. Ecco, però lei ha detto sblocchiamo, voglio andare all'Avvocatura dello Stato oggi, sì, sarò alle 2 per vedere se l'opera può iniziare comunque. Ma quindi poteva iniziare anche prima? No, cioè... no, non poteva iniziare prima, perché la prima sentenza di merito favorevole al consorzio che ha vinto è arrivata il 3 di ottobre, quindi non poteva iniziare prima. Poi ovviamente tutti penseranno, come dire, che si sblocchi per quello che è successo. Invece non è così. Ma prima non è così. Io tra l'altro difendo l'operato di commissari diversi da me, perché io sono stato richiamato a fare il commissario 2 mesi fa, quindi non... Ma obiettivamente né l'ex prefetto Romano né il sindaco Doria, che sono stati commissari prima di me, potevano consegnare questi lavori, perché fino ad allora la sentenza di merito che c'era era negativa. Non era arrivata, però pende il consiglio. Era negativa, certo, era negativa. Però se il Consiglio di Stato darà ragione ai ricorrenti... questo è un problema serio, ma ogni tanto bisogna anche assumersi delle responsabilità, e se l'avvocatura mi dà via libera io me l'assumo, nel senso che in questo momento c'è finalmente dal 3 di ottobre una sentenza favorevole, e fino a quando non ce n'è una contraria, quella lì vale. Naturalmente è vero che se il Consiglio di Stato desse un parere diciamo diverso si creerebbe un problema, che però si gestirà. Lei però credo che abbia detto: io andrò a Roma dicendo guardate che se il Consiglio di Stato poi dirà una sentenza contraria, pagherà lo Stato, non certo chiedetemi soldi questo la regione. Mi pare evidente, insomma, se noi riteniamo che la salvezza delle vite umane valga di più diciamo di un contenzioso, e se ogni anno che si guadagna è un anno buono, Io penso che bisogna andare avanti e devo dire che l'appoggio che ho avuto dal governo, dal primo ministro, dalla struttura di missione, dall'avvocatura in queste ore, mi fa pensare che questa qui ormai sia la linea. Poi tenete presente che la riforma Madia, dopo che anche io ho scritto a Renzi a maggio su questo tema, chissà quanti altri l'hanno scritto, finalmente dopo secoli fissa tempi strettissimi per le opere pubbliche, quindi anche diciamo nel caso di ricorso ulteriore non è una cosa che va avanti anni, va avanti mesi. Però sta Burlando, i cittadini sono molto arrabbiati, per esempio l'agenzia che doveva fare le previsioni, l'ARPAL, dipende e le ha sbagliate, dipende dalla regione. Lei non si sente per questo responsabile? Guardi, queste persone qui che lavorano da 20 anni in questo campo hanno gestito in questi ultimi anni 10 emergenze, diciamo così, le hanno azzeccate tutte. Questa volta qui i modelli, gli strumenti di cui dispongono hanno individuato correttamente una perturbazione violenta, ma hanno individuato anche un'attenuazione del fenomeno, diciamo, dopo le periodi di giovedì mattina. E invece non sono riusciti, diciamo, a individuare correttamente quell'ondata così violenta di giovedì sera. Io ho parlato a lungo con loro, non è che sono dei maghi, sono dei previsori. E la previsione, come francamente, io credo che non è che ora poi sarà l'indagine, saranno sentiti, hanno registrato ovviamente tutte le schermate, eccetera. Però è anche impossibile chiedere una realtà complicatissima come il Golfo di Genova, con contrasto di venti, con impossibilità di mettere le centraline in mare, perché le previsioni del tempo si fanno con delle centraline, in pianura padana le metti in terra ovunque, qui ne mettiamo lungo la costa, ma in mare non ce le puoi mettere, no? Non è che sia semplice. Ma poi, non sono maghi, però sa, lei ha detto prima che politicamente qualcuno ne ha approfittato. Allora voglio far ascoltare a lei e agli ascoltatori quello che ha detto Beppe Grillo. Non so se lei si riferiva per esempio a Beppe Grillo. No, vabbè, però siccome tira in ballo anche lei, senta Beppe Grillo. Hanno dato la colpa al TAR. Il presidente Burlando ha detto: i nostri modelli matematici questa volta hanno fallito. Io voglio l'esercito a Genova, a Olbia, dove succedono i disastri. Deve arrivare il giorno dopo l'esercito, perché l'esercito deve essere in funzione dei cittadini, non di questi cazzo di politici. L'esercito. Vabbè, Burlando, ovviamente il tono. Lo conosco da tanti anni. Il tono lo conosce. L'esercito è venuto perché l'abbiamo chiesto noi e l'ha mandato il ministro Pinotti, che è genovese. Però dice parlare lui ha modelli matematici. Adesso arrivo. Lui ha annunciato che sarebbe venuto oggi, ma ha anche annunciato che non viene più. E l'ultima volta che venne si prese anche un sacco di insulti, perché i genovesi sono persone serie, molto più serie di lui. E io dico la verità, cosa devo dire? Cioè, secondo lei è possibile prevedere sempre il tempo? Non credo, no? No, sempre no, certo. Sempre no, ne hanno azzeccate 10. Questa su 10, le ultime 10. Dopodiché le voglio provare. Però nel 2011, scusi, sono morte delle persone, anche lì ci furono polemiche, il sindaco fu indagato. Sì, ma tuttavia quell'allerta meteo fu correttamente prevista, con massimo livello di, diciamo, di gravità, allerta 2, quindi non possiamo far carico a questi previsori anche di quella vicenda lì, perché loro la previdero con grande chiarezza. Però le voglio dire, ho parlato con queste persone in questi giorni, puoi immaginare come si sentono, anche se le conseguenze di ciò che è successo sono relativamente, come dire, collegabili a quella vicenda lì, no? Nel senso che poi si ammontoggia, viene giù un monte, si poteva anche prevedere, ma veniva giù il monte. No, le parole voglio dire cosa mi hanno detto queste persone che hanno lontana esperienza dell'ARP. Vede, noi potremmo anche sempre, come dire di più di quello che vediamo. E poi ci accusano magari di procuratore. Sì, ma non è il fatto che ci accusino, perché queste accuse qui, io ho sempre detto, vanno respinte al mittente, nel senso che è giusto, come dire, essere prudente. Ma se poi ne dai 50, dopo 20 o 30, non ci crede più nessuno. La storia di allupo al lupo, insomma. Eh beh, certamente. Senta, i danni sono già stati stimati, a parte questi 50 milioni per i commercianti, credo 300 milioni, qual è la cifra di stime di danni? Guardi, purtroppo il fatto è questo, che quando vengono queste piogge così violente in un clima, in una regione così acclive come la Liguria, le frane vengono anche a distanza di giorni, non è che vengono, diciamo, subito, insomma. e quindi un quadro preciso pensiamo di averlo verso fine settimana, venerdì in particolare chiederemo lo stato di emergenza, quantificheremo i danni, certo un po' sommariamente perché raccogliamo dati da tantissimi punti diversi, e poi lo manderemo al Consiglio dei Ministri la richiesta, che la settimana prossima immagino accetterà questa richiesta e quantificherà l'aiuto iniziale. L'ultima domanda è questa, Burlando, ha visto le immagini del sindaco Doria fortemente contestato, insomma, sì. So che lei è andato invece nell'entroterra, vi siete divisi, sì, lui in città e voi nell'entroterra. Non pensi che nell'entroterra siano state rose fisiche? No, immagino, cioè, no, magari non c'erano le telecamere, sì, come magari come, non c'erano le telecamere. C'erano. Cioè, che cosa le hanno detto le persone? Vabbè, la gente è esasperata. Di la verità, a Montoggio, primo paese che ho visto, nessuno ha, come dire, ha contestato. A Savignone invece ci sono state contestazioni simili a quelle di Genova, nel senso che la gente, indipendentemente da tutto, era arrabbiata. L'ultima cosa, lei avrebbe voluto vedere o vorrebbe vedere il premier Renzi a Genova in un caso del genere? No, io non gli ho chiesto di venire. E ho chiesto a lui di mandarmi la struttura di missione, cosa che ha fatto. Abbiamo deciso ieri cose molto importanti. Oggi sono a Roma, può anche darsi che riesca a vederlo, che lo veda. Ma adesso io credo che in questi momenti qui, più che di passerelle, come dice il secolo di oggi, la gente ha bisogno di risposte. Io francamente oggi vorrei poter dire consegni i lavori. E i 50 milioni invece quando? I 50 milioni a stretto giro, qualche giorno, ai commercianti? Beh, la nostra parte la mettiamo subito. L'impegno che la struttura di missione ha assunto è di mettere da parte il governo una legge di stabilità, quindi diciamo a metà tre ottobre. Giorni, sì, due o tre giorni. Quindi io vorrei che magari poi Renzi venisse anche, ma vorrei che venisse a dare delle cose, ecco, più che, perché mi sembra che in questo momento le parole alla gente servono abbastanza poco. Va bene, intanto vedremo come va oggi la sua missione, chiamiamola così, a Roma. La ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Claudio Burlando è Presidente della Regione Liguria del Partito Democratico, ma noi non abbiamo finito l'argomento, perché dopo la pubblicità invito anche, se volete chiamarci, 800 24 00 24, magari siete di Genova, della Liguria, di Parma, del Piemonte, le zone colpite nell'Alessandrino, raccontateci come state vivendo questi giorni. Avremo ospite il procuratore di Genova e avremo ospite anche un assessore del comune di Genova, perché c'è tutta quella polemica, non l'abbiamo dimenticata, sui i premi anche dati ai dirigenti che lavoravano in quel settore e che si dice, ma come sono stati premiati? Secondo la procura invece sono responsabili di altre disgrazie, come è successo a Sestri nel caso di un dirigente. Perché hanno ricevuto dei premi dal comune? Tra poco. 24 mattino. Siamo qui alle 8:38 minuti, rientriamo in diretta dopo aver avuto il presidente della regione Burlando, che ha detto l'ARPAL ha azzeccato le ultime 10 previsioni, questa effettivamente no, ma non sono dei maghi, sono gente che lavora e prevedono il tempo. È una considerazione che voglio subito girare al procuratore di Genova, Michele Di Lecce, che saluto e ringrazio. Procuratore, buongiorno e grazie buongiorno per essere qui. Perché la procura ha aperto un fascicolo, mi risulta, con ipotesi di reato disastro colposo. Nei confronti di chi, procuratore? Ma per il momento nei confronti di soggetti da identificare, così come era stato già nell'immediatezza dei fatti aperto lo stesso fascicolo per l'ipotesi di omicidio colposo in relazione alla morte di un cittadino. Ecco, a proposito di questo, ma secondo, diciamo, come si orienta la procura, cioè dove nella catena decisionale, in chi potrebbe avere dato delle previsioni sbagliate, cioè è un lavoro complicato quando poi ci sono fatti del genere, trovare degli eventuali responsabili? Beh, certamente non è un lavoro semplice. Quello che cercheremo di fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sarà quello di cercare di ricostruire che cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto nel periodo che va dalla scorsa, dall'ultima alluvione fino alla penultima, cioè quella del 2011. Lei ha letto le polemiche, tra poco ne parleremo anche con l'assessore, le polemiche che ci sono state per alcuni premi dati ad alcuni dirigenti del comune, e oggi il Secolo XIX racconta che un dirigente che è stato premiato è stato identificato dalla procura come responsabile dell'alluvione di Sestri Ponente per incompetenza, ovviamente per incapacità, per omissione della sua attività. Che effetto le fa intanto leggere che da una parte vengono premiati e dalla procura vengono identificati come possibili responsabili? Beh, ovviamente capisco che può essere a effetto questa situazione, però la imputazione che noi abbiamo sollevato come ufficio nei confronti di alcuni di questi dirigenti, di uno in particolare, era relativa all'alluvione del 2010 dell'area di Sestri Ponenti, quindi un'altra alluvione ancora. Presumo che i premi o i riconoscimenti di raggiungimento di obiettivo siano relativi ad anni successivi. Ovviamente io non entro nel merito delle valutazioni del comune, soltanto che rispetto a quella indagine dell'alluvione del 2010 la procura ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, tra gli altri anche di alcuni funzionari comunali, regionali, oltre che di privati. No, è chiaro, in questo caso però si parla di Stefano Pinasco, appunto citato sul Secolo XIX, dirigente, rinvia giudizio per quell'alluvione ma premiato successivamente, 4 anni dopo. Per lei, dice, sono due episodi non in correlazione. Presumo di no, anche perché mi pare che appunto ci sia un lasso temporale notevole tra la nostra contestazione e il riconoscimento, salvo che il riconoscimento non sia per annualità precedenti, ma francamente questo non lo so. È chiaro. L'ultima domanda è questa, procuratore: la sensazione di molti cittadini quando avvengono queste cose è che poi si dice i responsabili non si trovano mai, perché non è semplice. Lei come replica? Beh, non è semplice la responsabilità, trovare elementi per la responsabilità penale. Io cerco di chiarire sempre che il compito della procura è quello di accertare eventuali reati, e ovviamente una volta accertati i reati possibilmente chi li ha commessi, ma le responsabilità ovviamente non si esauriscono sul piano penale, ma ci sono altre responsabilità che vanno da quella civile a quella politica a quella amministrativa, quindi i piani sono diversi. Per quanto riguarda le responsabilità penali, noi ovviamente cercheremo di ricostruire, come dicevo prima, sia per così dire la catena di comando, o per meglio dire la catena degli avvisi in questa situazione, sia i comportamenti tenuti dai vari soggetti interessati nei 3 anni che si sono succeduti alla precedente alluvione. Non è detto che facendo questo tipo di accertamenti emergano responsabilità penali. L'ipotesi che noi abbiamo oggi formulato è appunto quella di disastro colposo, ma ovviamente serviranno le indagini per verificare. Intanto, procuratore, la ringrazio per essere stato con noi. Michele Di Lecce, ricordo, il procuratore di Genova, grazie davvero, grazie. Buona giornata. Intanto, nel salutare un assessore che è l'assessore Valeria Garotta, assessore all'ambiente di Genova, anche però la delega allo studio dell'assetto idrogeologico, il coordinamento per la tutela del territorio e difesa idrogeologico. Buongiorno assessore. Buongiorno. Le faccio ascoltare anche qualche ascoltatore che ci chiama. Daniele da Genova. Daniele, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo dire due cose. Allora, la prima è che ho sentito Burlando stamattina, è davvero inaccettabile. Sì, è inaccettabile che cosa? Lui giustifichi i tecnici dell'ARPAL. Giustifica, ha detto, non sono dei maghi, hanno azzeccato tante volte, questa volta effettivamente non hanno azzeccato la previsione. Dica. Ma infatti lo spessore degli uomini si misura nelle condizioni, quando bisogna prenderci le nostre responsabilità. Questi tecnici hanno sbagliato. Giovedì sera alle 9 sì. A Genova si stava portando il mondo. Alle 11:30 io mi sono trovato a Brignole, ho visto le macchine che fluttuavano e sappiamo bene quali erano i messaggi che inviava la Protezione Civile alle 11:20. Cioè, queste persone erano messaggi più tranquillizzanti? I messaggi erano fate attenzione, ci sono forti piogge. Mm-hmm. e c'erano le macchine è che lì che è stato evidentemente l'errore, d'accordo, ma era dalle 9 che si stava portando il mondo, era dalle 9 sì. E erano già 5 ore che pioveva. Daniele, è stato accertato infatti che è stato un errore, quindi lei cosa farebbe? Quindi adesso, se c'è un errore, queste persone, chi siano i responsabili dell'ARPAL, si devono dimettere. E sa qual è la cosa triste, Milan? Sì. Quella davvero triste è che aspettiamo sempre la magistratura in questo cazzo di paese. Noi aspettiamo che la magistratura debba accertare una certa responsabilità penale, che poi alla fine non ci sarà, nessuno pagherà. E ancora una volta queste cose probabilmente riaccadranno. Vediamo. Intanto la ringrazio. Mi faccia sentire anche Luca da Genova, poi voglio andare, ci sono le informazioni sul traffico e voglio concentrarmi con l'assessore. Luca, buongiorno. Buongiorno. Io volevo soltanto portare una piccola nota, nel senso che, per esempio, ho scoperto, anch'io vivo a Genova a poca distanza da Borgo Crociati, ma non ero a conoscenza, che per esempio negli ultimi 60 anni, credo, 70 anni, erano stati fatti costruire dei negozi lato Brignole, quindi sì, lato dove c'è stata poi l'esondazione, che occupano di fatto 2 metri, diciamo, della luce dell'ultimo ponte del Bisagno, che è quello proprio che ha causato, diciamo, il problema dove c'è stata l'esondazione per Borgo Incrociati. Allora, voglio dire, visto che gli stessi problemi erano successi a Sesti col Chiaravagna, dove era stato abbattuto un palazzo che occupava, diciamo, passava sopra il Chiaravagna, il Fareggiano nel 2011, anche lì hanno abbattuto una casa perché occupava il letto del cioè, lei dice, cioè, si è costruito in passato, e questo però è un problema che come affrontarlo nel presente, Luca? Nel presente, con delle attività di messa in sicurezza, che vuol dire anche abbattere dei palazzi, cioè il fatto del teniamoci, ci vivono delle persone, hanno dei problemi, non voglio dire che dall'oggi al domani uno deve buttare giù mezza Genova per metterla in sicurezza, però non è accettabile che in 60 anni non si sia fatto piuttosto che un'altra, perché ovviamente hanno passato tutti i colori più o meno, non si sia preso in carico questo tipo di... No, ma è sicuramente una posizione interessante, Luca. Questa è una delle responsabilità che si concretizzano poi nell'immediato, ma che derivano dal passato. A questo proposito, dopo il traffico, saremo con l'assessore Valeria Garotta a fare 2 chiacchiere. Allora, assessore Garotta, intanto oggi una sua collega di giunta ha spiegato in una serie di interviste perché questi premi che stanno facendo molto discutere, no? Premi che tra l'altro sono stati approvati dal Consiglio Comunale, se non sbaglio, i premi ai dirigenti del Comune. Sì, sono stati approvati a giugno, diciamo, vengono approvati ogni anno con il bilancio. Però fanno arrabbiare molto i cittadini, cioè lei si può mettere nei panni di un cittadino che legge di dirigenti premiati, uno dei quali addirittura ha spiegato anche il procuratore di Lecce, è imputato per una vicenda di 3 anni fa, invece, una vicenda simile. Come giustifica questo? In questo caso si parla di un dirigente che è la persona, diciamo, più esposta in una situazione di rischio idrogeologico ormai conclamato, ed è quello che è, diciamo, la persona che sta intervenendo per cercare di sistemare questa città. Però non dobbiamo assolutamente perdere di vista la complessità di questa situazione, cioè lui era, diciamo, in quel caso indagato per l'alluvione di Sestri Ponente. Sestri Ponente è, diciamo, il bacino del Chiaravagno, è un bacino su cui ormai noi abbiamo, e in particolare la persona di cui si parla, approvato e appaltato tutta una serie di opere, è stato demolito il palazzo di Via Giotto, rimane ancora una criticità che è dovuta al fatto che l'azienda Piaggio, che si trova praticamente alla foce del Chiaravagna, ha impugnato tutta una serie di atti, peraltro diciamo emanati dalla stessa persona di cui stiamo parlando, perché si oppone allo sgombero di una sua cabina di verniciatura, tra l'altro al momento non più utilizzata. No? Dico questo perché quando si va a, diciamo, dare giudizio sulle persone, bisogna anche capire che ci sono delle complessità enormi e che queste persone, io credo che la persona di cui si parla sia uno dei migliori tecnici che ha questa amministrazione, che si trova ad avere per le mani probabilmente diciamo la criticità più forte. Sì. Ma più quindi forte, dice, appaiono così, ma non sono scandalosi questi premi, lei dice. Ma io credo che in particolare la persona di cui stiamo parlando è la persona che a cui l'amministrazione nel 2012 ha commissionato l'input di rivedere il progetto dello scolmatore del Bisagno da 265 milioni di euro per cercare di dare una prima risposta sul Sereggiano, e lo ha fatto, ha portato a casa con il piano città 25 milioni per la città di Genova, ed è anche grazie a questa persona se noi oggi, proprio nella giornata di oggi, apriremo le buste per, diciamo, l'assegnazione dell'appalto del Sereggiano. Come ci ha detto il presidente Burlando, che oggi andrà anche a Roma invece per la vicenda dei lavori sul Bisagno. Sì. Le chiedo questo: ai cittadini molto arrabbiati che dicono, ma com'è possibile che ogni 3 anni ci troviamo in una situazione simile, lei che risponde? Cioè, li capisce? Ma io innanzitutto certamente comprensione e solidarietà, e faremo tutto quello che possiamo fare per, come già annunciato il sindaco, per diciamo sospendere il pagamento dei tributi, la regione metterà a disposizione dei fondi per il risarcimento, però dico anche che dobbiamo capire che abbiamo una città complicata, e se mi dà un minuto le vorrei spiegare, sì, come è nato il problema del Bisagno, perché questa situazione per cui ogni anno, ogni 3 anni, diciamo, fino a che non si faranno le opere risolutive, ci troviamo in questa situazione, è dovuta al fatto che quando hanno progettato la copertura terminale del Bisagno, dal ponte della ferrovia, da Brignole fino al mare, hanno drammaticamente sbagliato i conti, e quindi hanno dimensionato quella copertura per una portata che è un terzo di quella che dice oggi il piano di bacino. Mm. Si può immaginare che cosa vuol dire risalire di questo tipo? Che giunta era? Ma no, guardi, parliamo del 1910, 1920, quindi è un po' difficile andare indietro. Scusi l'ignoranza. No, no, no, no, però è importante far capire questo, che quindi, cioè, aumentare di quasi 1000 metri cubi al secondo la portata del Bisagno vuol dire fare opere complesse. Sì, però costure. Questa cosa delle opere, insomma, cioè, come ci ha spiegato il presidente Burlando, insomma, le opere che erano bloccate, insomma, aboliamo il TAR, non so, facciamo una battaglia per abolire il TAR e il Consiglio di Stato a questo punto, perché non è che si può tenere bloccato tutto. Le faccio sentire ancora qualche, sì, ascoltatore. Massimo, sì, da Firenze ci chiamava. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Sì. Allora, intanto volevo rispondere a questa signora, evitiamo, sì, il 1910, perché qui siamo veramente ai culmini dei culmini. Poi abbiamo un sindaco Doria che si sta comportando come si sta comportando, ed è veramente una grande vergogna. Per quanto riguarda il discorso di Grillo, ha pienamente ragione, l'esercito entro nelle 24 ore successive al danno doveva intervenire. Ma è arrivato qualcosa dall'esercito? Doveva intervenire, non si può vedere dei ragazzini di 15 anni dire io non sono andato a scuola per venire a dare una mano, perché c'è da fargli tanto di onore a questi ragazzi. Ed è una vergogna in una nazione come l'Italia avere dei politici, mi scusi Milan la rabbiatura, sì, ma avere dei politici che stanno continuando a rubare, nel vero senso della parola, rubare. Rubare vuol dire mettere in ginocchio una popolazione, è quello che stanno facendo, e questo sono miliardi, milioni di euro spesi, non spesi perché tenuti da una parte, perché eventualmente ci sarà qualche politico. Certo Massimo, io capisco il suo sfogo, ma lei mette un po' tutto, sa, quando uno dice i politici rubano, sì, è una frase, poi va circostanziata in ogni singolo episodio, se è così. Comunque capisco la sua rabbia, Massimo. Andrea ancora a Genova, da Andrea buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io vorrei dire solamente due cose. Allora, tutti stiamo andando addosso al sindaco Doria, che sicuramente avrà, sì, delle colpe, ma secondo me minime rispetto a tutto quello che ci sta dietro. Noi qua ci dimentichiamo che 20 anni fa c'era una talpa che doveva fare lo scolmatore del Bisagno, che l'avrebbe fatta a 100 metri al giorno praticamente, sì, ok? Quella talpa lì è rimasta degli anni lì sulla spiaggia smontata, non hanno mai combinato niente, hanno buttato via un sacco di soldi. Adesso l'appalto che c'è in ballo, che adesso, sì, è fermato al TAR, sì, è per dei lavori che non saranno fatti con la talpa che va a 100 metri al giorno come dovrebbe essere fatto, ma ancora con i vecchi metodi tradizionali, quindi ci metteranno anche di più. ci metteranno molto di più, quindi già se lì mai stato... partiranno i lavori se mai partiranno, ma tanto lì è già sbagliato in partenza il metodo di lavoro. Poi ci dimentichiamo che il signor Burlando ha fatto costruire da tutte le parti di tutto di più ancora in tempi recentissimi. Ma lei dice soprattutto la regione la responsabilità. No, ma Andrea, si è capito, però un minuto, se no volevo chiudere con l'assessore e assessore, però un minuto altrimenti devo sfumare, purtroppo i tempi in radio sono rigorosissimi. È sulle richieste di dimissioni del sindaco e quindi anche immagino della giunta, lei cosa replica ai cittadini? Ma la stessa risposta che ha dato il sindaco, se servisse a cambiare immediatamente la situazione le prenderemo in considerazione. Io credo che in questo momento sia davvero improduttivo fare queste valutazioni. Ecco, dobbiamo sbloccare le opere, farle partire, farle realizzare nei tempi più brevi possibili. Ieri abbiamo avuto un'importante disponibilità da parte del governo che si è impegnato a finanziare subito anche una parte del terzo stralcio dei lavori del Bisagno, e quindi con questo mettiamoci a lavorare subito e cerchiamo di comprimere i tempi il più che possiamo, sapendo che comunque risalire questa situazione richiede qualche anno e investimenti che purtroppo sono inevitabili. Se non sono stati fatti prima, quando partono le cose, poi ci vuole sempre qualche anno. Ringrazio l'assessore Valeria Garotta, assessore all'ambiente del Comune di Genova. Con lei concludo questa puntata con Lorenzo Nespoli in redazione, insieme a Elisabetta Fusconi e Alessandro Longoni e Peter Bescapè in regia. Domani alle 6.30 siamo qui. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com. Vi ha presentato 24 Mattino.